23 luglio 393. Fratello mio, hai scelto l'anno peggiore per invitarmi alle Olimpiadi? Ipazia scrolla delicatamente il capo, lanciando uno sguardo amorevole a Epifanio, mentre la luce di questa limpida mattinata le illumina il bellissimo volto. Ci troviamo in quello che una volta era il porto reale, a pochi passi dalle rovine del tempio di Iside distrutto 2 anni fa. Di fronte a noi l'isola con il maestoso faro. Al contrario, Ipazia, potrà essere l'occasione, non dico per riposarti, ma per uscire da quest'ambiente che è diventato cupo. Ogni volta che torno non vedo altro che rovine di templi, una città in decadenza, litigi, conflitti. Ah! Ed Epifanio protende una mano indicando le rovine alle nostre spalle. Rivedrai la tua amata Atene, parteciperai al convegno di astronomia, potrai cercare tutti i testi che vuoi e assisterai alla mia gara. E la fissa con occhi spiritati. Mi permetto di intervenire per rasserenare la mia maestra, che non riesce a celare del tutto la preoccupazione per questa partenza. Ipazia, sono 2 anni che non ti sei fermata un solo giorno. Mai una gita, una festa, un teatro, una passeggiata, una cavalcata. Sempre solo e soltanto studio, studio, studio. Seppellita in casa, nel nostro centro studi, e mi folgora con uno sguardo dolcissimo. Ma questo sarà un viaggio dedicato anche allo studio, replica il fratello che non riesce a mascherare l'impazienza nella sua voce. E poi a Olimpia verrà anche Atanasio, mi renderai felice, è il dono più grande che puoi farmi, anche perché non credo ci saranno altre Olimpiadi per me. Che dici, Epifanio, hai 25 anni? Milone riuscì a vincere per ben 5 Olimpiadi di seguito? Certo, sorella, ma nella lotta, nella corsa che pratico io, la più dura, il dolico, non è possibile. Quest'anno o mai più, e accenna una timida alzata di spalle. Sai che non dovresti partecipare a quel genere di corsa. La tua corporatura è troppo possente, è una distanza troppo lunga, il cuore subisce sforzi violenti. Il tuo corpo è fatto per le gare brevi, perché vuoi snaturarlo? E con una mano gli sfiora il viso abbronzato. Epifanio allontana dal volto le dita di Pazia con un gesto di vergogna, ma poi le trattiene. Hai ragione. Ma il mio spirito mi spinge al dolico, alla distanza lunga, al sacrificio. Se dipendesse da me, raddoppierei la distanza, la triplicherei, perché è lì che posso liberare le ali di fiamma del mio carattere, qualcosa che solo io posseggo e nessun altro. E lancia alla sorella uno sguardo carico di orgoglio. Sulla banchina dove ci troviamo, procedono a ritmo serrato le operazioni di carico della nave. C'è un gruppo di alessandrini che parte per assistere alle Olimpiadi e c'è tanta gente venuta a salutare Epifanio e altri atleti che parteciperanno alle gare olimpiche, comprese parecchie autorità cittadine. Mi guardo intorno. Valeria e Sinesio avevano promesso di venire a salutarci. Manca poco alla partenza. Ah, ed ecco che scorgo all'entrata del molo un carro. Poco dopo il cavallo si ferma accanto a noi e dalla carrozza scendono la mia compagna e il mio compagno di studi. Valeria mi lancia un sorriso luminoso mentre Sinesio abbraccia Ipazia e poi Epifanio. E così il nostro eroe delle arene ci ha strappato in un solo colpo la nostra maestra e il suo braccio destro e stringe le braccia di Epifanio con calore, la gioia nella voce squillante. Sinesio di Cirene è l'ultimo acquisto del nostro centro studi. Ha 23 anni, come Ipazia, di buona famiglia. Appassionato soprattutto di filosofia, si è subito inserito nel nostro gruppo. Si fa ben volere da tutti. Non ha una mente speculativa, ma un po' come me è curioso e assetato di conoscenza. Completamente calvo, riesce a scherzare continuamente su questa sua singolarità ed è uno dei pochi fortunati che non ha bisogno di fare altri lavori per mantenersi agli studi, perché i suoi genitori sono grandi proprietari terrieri. Sinesio, so quanto ti sei prodigato per convincere mia sorella a seguirmi e te ne sono veramente grato. Era mio dovere. Volevo invece mettere al corrente Ipazia e Shalim che ho ricevuto 2 lettere, una in cui Claudio Claudiano si dice dispiaciuto di non poter partecipare alle gare di poesia alle Olimpiadi, ma vi aspetta comunque a Roma, dove sarà felice di ospitare anche Olimpio. L'altra da Atene. Il buon Siriano vi attende e sarete suoi ospiti. Purtroppo Ammonio e Delladio non potranno lasciare Costantinopoli. E si passa una mano sul cranio lucente al sole. Claudio accenna alla situazione di Roma? Nella voce di Pazia segni di apprensione. Oh, poche righe, ma sufficienti a farci capire che forse la città eterna è l'ultimo baluardo dell'ellenismo. E Sinesio Si passa un dito sul naso aquilino sino a soffermarsi sulla punta, sgranando i chiari occhi ardenti. Dalla nave gridano che bisogna affrettarsi per l'imbarco. Valeria abbandona il braccio di Pazzi e mi viene accanto. La gioia per questo viaggio ti si legge negli occhi e mi abbraccia, emozionata. Mi mancherai, Shalim. Il suo volto perennemente allegro si piega sotto la sferzata di un disincanto struggente. Ha sentito i miei muscoli tesi a separarla da me. Mi lascia, abbassa lo sguardo mordendosi le labbra rosse, saluta Epifanio dicendogli che farà dei voti per la sua vittoria, abbraccia Ipazia sforzandosi di sorridere. La gente saluta Epifanio e gli altri atleti, inneggiando alle immancabili vittorie di Alessandria. Sinesio viene raggiunto da un magistrato calvo come lui e si mettono a parlare animatamente. Solo Valeria resta a guardarci, mentre la nave abbandona il porto grande. Ormai non riesco più a percepire il suo stato d'animo dall'espressione dei suoi lineamenti, ma la figura immobile, il bel capo piegato da un lato come sotto il peso di una malinconia struggente, rivelano una tristezza che cresce al rimpicciolire della sua persona. Ipazia è accanto a me, poggiata al parapetto posteriore della nave, lo sguardo proteso verso il porto che si allontana. Valeria è triste a causa tua, Shalim. Ho paura di risponderle. Non voglio parlare di questo mentre la sua voce mi inonda la vita. Ipazia cerca i miei occhi. Valeria non merita nemmeno un tuo commento, Shalim? E mi folgora con uno sguardo severo. Ma avvampa di sole, è così bella che non mi abituerò mai. Accanto a noi Epifanio è indaffarato a sistemare i bagagli, mentre comincia ad apparire la maestosità del faro, le colonne di marmo, il cimitero delle bambine e dei bambini. Ipazia, i miei progetti, i miei sogni, gli anni che ho vissuto e quelli che vivrò, tutto appartiene a te. I suoi occhi tornano a scrutare il porto, scuote il capo. Non è giusto che tu e Valeria rinunciate a tutto per lo studio. Io a queste cose non ci penso mai, ma non voglio costringere nessuno. Nessuno! E rialza la testa, una vaga tristezza nello sguardo buono. La sua bellezza cristallina viene avvolta da quest'ombra di malinconia che mi fa tremare d'amore. Eppure riesco a frenarmi. Nessuno costringe nessuno, Ipazia. Ognuno di noi segue il proprio destino, stai tranquilla. Spira una brezza che mitiga la calura estiva. La nave abbandona il porto grande e lentamente viene investita in tutta la sua lunghezza dall'ombra del faro. Restiamo a poppa, immersi nella visione della gigantesca costruzione. Devo riuscire a sgombrare la sua mente dalla malinconia che l'ha assalita. Ipazia, se un giorno tu ne avessi bisogno, io potrei tornarci nei sotterranei del faro. I miei amici Alon e Shai hanno ripreso il vecchio lavoro di rifornimento. No, Shalim, dobbiamo fare di tutto per non toccarle mai quelle anfore. Qualunque cosa accada a noi e al nostro centro, le generazioni future le riceveranno in eredità, con qualche testo basilare per la scienza e la filosofia. Comunque nei sotterranei del Serapeo qualcosa è rimasto. Oh, copie di scarso valore, Shalim, con l'eccezione di alcuni codici degli atomisti. Credo che ci siano 5 o 6 nicchie veramente preziose. Sarebbe bellissimo potersene riappropriare. E torna a sorridere con occhi di nuovo rilucenti. È ancora troppo pericoloso. Da quando il Serapeo è stato convertito in chiesa cristiana ci sono sempre soldati imperiali di guardia. Mi folgora con un'occhiata amara. Altro che convertito. Teofilo ha distrutto le statue e gli oggetti sacri. Ha bruciato la biblioteca. E sopra le ceneri della nostra religione e della nostra scienza ci ha piantato una croce e si morde le labbra. Eppure la colonna di Pompeo è lontana quasi 2 stadi dal Serapeo. Ma nel palazzo vescovile che hanno costruito attorno alla chiesa, oltre a Teofilo, ci vivono e ci sguazzano centinaia di monaci parabolani, il suo piccolo esercito. Nelle nicchie degli atomisti ci sono le copie di 2 dei codici che hai nascosto nelle anfore, il trattato di Moco e di Democrito. Avremmo dovuto prenderle quel giorno. E gli occhi le si riempiono di dolore. Si rifugia con lo sguardo in alto verso la sommità del faro, cinta da uno stormo di gabbiani. Sono testi molto importanti, Shalim. La sua voce è ancora impregnata di emozione. Quello di Moco è il terzo di ben 10 volumi. mentre quello di Democrito è il quinto del piccolo ordinamento del mondo, da cui si evince che tutta l'opera era composta di oltre 20 volumi. E scuote il capo. Com'è possibile che non ne abbiamo mai sentito parlare? Abbandona i gabbiani, tornando a guardarmi, occhi sgranati. Forse questi due volumi furono i superstiti del rogo della biblioteca madre, forse i pochi che sfuggirono a Giulio Cesare. Ma due opere così colossali, per argomento e grandezza, dovevano lasciare qualche traccia. Sai a cosa accenna Moco nell'unico volume rimasto? Alla luce. Lui ha condotto uno studio sulle sue proprietà, sulla velocità della luce. Oh, Shalim, potremmo riscrivere la storia dell'universo. Dobbiamo trovarli. E i suoi occhi mi interrogano, supplici. Se non sono andati distrutti, li troveremo. Ipazia. Vuoi che cominciamo da Atene? Le biblioteche di Pergamo, di Antiochia e di Atene sono state bruciate come la nostra, Shalim. Eppure noi siamo riusciti a mettere in salvo qualcosa. Gli occhi le brillano di nuova speranza. Vuoi dire che altri come noi due potrebbero aver occultato qualche testo? Oh, non ditemi che state parlando di papiri e pergamene. Il tono allegro di Epifanio mi fa voltare. Ringrazio il giovane per aver provveduto a sistemare i nostri bagagli. Già che ci sono, dammi anche quella e così faccio il lavoro completo. Epifanio accenna ad afferrare la scarsella di cuoio poggiata ai miei piedi. No, meglio di no, ci penso io, ci sono strumenti delicatissimi. Vedendo i suoi occhi più stralunati che mai, m'affretto a dirgli che nella borsa, tra l'altro, ci sono una cetra, un aulos e un astrolabio. Oh, quindi c'è da supporre che in questo viaggio tu e mia sorella ci allieterete con musica e osservazioni astronomiche? E sorride, con un'espressione insolente che gli illumina il volto. Caro fratello, noi che di mestiere usiamo l'intelletto, troviamo sempre qualcosa di interessante da fare, in qualunque condizione, in qualunque luogo. Ipazia sorride a Epifanio. Lui la prende tra le braccia, felice come un bambino. Vedrai, a Olimpia anche tu sarai fiera di me, vedrai. Siamo usciti dall'ombra del faro e mentre lentamente Alessandria si allontana, Ipazia ed Epifanio mi lasciano solo. Mi immergo nella contemplazione del panorama. È il mio primo viaggio, non ho mai visto il faro da questa distanza. Il tempio di Iside Faria distrutto. E poi il porto antico, il rogo della nave, Zosimo, Ausenzio e la costellazione della musica, frammenti di eternità mi risucchiano sui gradini del tempio di Poseidone. Le prime fiamme del tramonto avvolgono il Partenone con colori forti, tonalità dal giallo oro al rosso arancio, con sfumature viola. La parte superiore del tempio si staglia sulle nuvole di fuoco, è uno spettacolo da mozzare il fiato. Presto diventerà una chiesa cristiana anche questa meraviglia. Seguo la voce sepolcrale, mi giro e trovo il faccione simpatico di Siriano, dell'Accademia Neoplatonica di Atene. Accanto a lui, Ipazia, vestita con una tunica celeste, anche lei con lo sguardo perso tra le colonne del Partenone. Almeno questa vista ci ripaga di tutto il viaggio. Ipazia ha appoggiato la punta delle dita sul mento e il capo inclinato verso l'alto, la bocca chiusa. Cosa t'aspettavi, amica mia? L'Accademia vive ormai solo di ricordi. Siriano fissa la mia maestra con occhi tristi. Manca una guida come te. Plutarco non è lo stesso di quando eravamo ragazzi, ricordi, Pazia? Poco più che adolescenti, ma pregni di entusiasmo. Non è così, Siriano. I tuoi compagni non solo non riuscivano a capire come funziona l'astrolabio, ma non davano alcuna importanza alla sperimentazione. A base della scienza. E quando ho cercato di intavolare una discussione su Aristarco di Samo e sulla sua teoria, mi guardavano come se io fossi una favolista, e il sole al centro delle stelle fisse, e la terra che si muove in circolo attorno al sole. Ipazia cerca di modulare la sua voce tentando di imitare il tono di incredulità degli studenti dell'Accademia di Atene, ottenendo risultati di incantevole comicità. Tanti giorni in mare. Il suo volto baciato finalmente dal sole hanno donato alle sue guance perennemente pallide di studio una delicatissima vampa. Perdonami, Siriano, ad Alessandria insegniamo l'esattezza assoluta, la certezza assoluta, spingendoci sino allo studio dell'infinitesimale. E e protende le braccia verso la sommità del tempio, nella direzione del cielo rosso come il fuoco. E forse è proprio questa ricerca dell'esattezza che ancora non ci permette di applicare efficacemente la matematica all'astronomia e a tutte le altre scienze. Eppure questa è la strada, la sola possibile da percorrere. Il filosofo attende che Ipazia concluda il suo discorso. Ma la mia maestra è di nuovo estasiata alla vista del Partenone infiammato dal sole, mentre io, Ipazia, cara, amo le interpretazioni allegoriche e le dimostrazioni della concordanza delle verità platoniche con la teologia e la misteriosofia. E schiude il faccione triste a un timido sorriso. Ho paura, amici miei, che la stessa delusione la proverete visitando Antiochia e Pergamo, dove la vita culturale ruotava attorno alle due biblioteche. Bruciate queste, i pochi eruditi e studiosi sono praticamente scomparsi. Siriano si rivolge a me. Dimmi, tra i resti della biblioteca hai trovato qualcosa? Ho frugato tra i pochi testi scampati all'incendio, ma non c'era niente di interessante. Eppure io e Ipazia non ci rassegniamo. Da qualche parte, in una nicchia nascosta, in un cantuccio impensato, i testi di Democrito e di Moco devono esserci. Qualcuno ha compreso che in essi c'è la chiave per una nuova visione del mondo e ne ha fatto delle copie, le ha occultate e seppellite. E indico il Partenone. Ecco qui, ad esempio, sotto la base su cui poggia la statua di Atena. Mi giro indicando il teatro sotto di noi. Oppure lì, nei cunicoli sotterranei, nella Scala di Caronte, oppure sotto l'oracolo di Delfi, o nella residenza del Collegio dei Sacerdoti di Olimpia. Intendi dire che non è in una biblioteca che troveremo Democrito e Moco? Siriano dà l'impressione di rimuginare sulle mie parole. Abbiamo un amico fidato a Costantinopoli, Filostorgio, uno studioso che sta scrivendo una voluminosa storia ecclesiastica e un topo di biblioteca, proprio come voi due, ed è molto interessato alla scienza. Mi metterò in contatto con lui. Ipazia, nel frattempo, si è avviata verso l'entrata del tempio. La sua bellissima figura si staglia sull'orizzonte giallo di fuoco. Il rosso polverio del tramonto le dipinge sulla chioma un alone che brilla d'oro. La cintura bianca fascia una vita così stretta che io potrei stringere con una mano. E i lacetti di cuoio dei sandali le artigliano caviglie guizzanti di gioventù mentre salta da un gradino all'altro. È la decima ora dell'11 agosto 393. Terzo giorno della 293esima Olimpiade. Lo stadio di Olimpia è stracolmo. Attorno a noi la gente dice che siamo più delle 4.500 persone che può contenere. Pochissime sono le donne che assistono ai giochi, come è stabilito dal regolamento e come è consuetudine. Ipazia è una di esse. Gli organizzatori già sapevano del nostro arrivo e ci hanno riservato un posto assieme alla delegazione di Alessandria. Ci sono parecchie autorità cittadine, alcuni armatori che hanno la sede nel faro, parecchi mercanti. E poi c'è l'altro fratello, Atanasio. Da quando gli Ellanodici, accompagnati dagli Araldi, hanno preso posto alla terza ora ed è cominciata la grande Olimpiade, ci siamo alzati una sola volta per andare a bere e mangiare qualcosa, alla settima ora, subito dopo le eliminatorie del Dolico in cui gareggia Epifanio. Siamo seduti quasi in linea con la soglia d'arrivo. Al mattino l'oro della giornata di sole era piacevole, ma ora il caldo è terribile. Non spira un alito di vento. Non facciamo che rimpiangere il clima della nostra meravigliosa Alessandria. Ipazia sta seduta sul gradino di terra battuta in mezzo a me e al fratello. Ombre di preoccupazione le offuscano il volto accaldato. Anche Atanasio se ne è accorto e cerca di scherzare, dando fondo a tutto il suo carattere entusiasta della vita. Sorella, non vorrai fare la fine di Talete? Aveva intuito che l'acqua è la vita, che la vita non può esserci se non c'è l'acqua, e poi che ti fa? E col suo sguardo ridente cerca quello della sorella, che invece continua a fissare lo scamma sabbioso dove tra poco si disputeranno le finali. Atanasio, con una mano, forza il mento di Pazzi e la obbliga a fissarlo. Venne in questo stadio, qui dove stiamo noi, ad assistere alle Olimpiadi, e si appassiona tanto alle gare da restare sotto il sole per tutto l'arco della terza giornata, senza preoccuparsi di bere il principio della vita, l'acqua, e muore qui, 1.000 anni fa. Ride con tono canzonatorio. Ma non riesce a contagiare Ipazia, che allontana la mano del fratello. Talete è grande non per la stupida morte che ha incontrato, ma perché ha dato vita al pensiero, alla ragione. È stato il primo a scavare con quest'arma nella nostra mente, per capire le leggi di madre natura. Il primo, Atanasio, il primo di questo grande popolo ellenico che ha cambiato la storia dell'uomo. È una delle rare volte che la sua voce è lievemente stonata. Il suo pensiero è altrove, il suo viso bruciato dal sole è imbronciato, cupo. Sorella, allora cos'è che ti preoccupa? Forse sei rimasta scossa dalla nudità degli atleti? E le orbite sfavillanti si dilatano a dismisura. Stupido. Forse dimentichi che oltre a occuparmi di numeri e di stelle, come mio padre, sono anche medico. Guardo gli atleti, spaventata dai danni che queste pratiche sportive possono arrecare loro. Ecco. Ad Alessandria abbiamo fondato un'associazione di medici per studiare proprio la medicina sportiva. E nei suoi occhi appare un'emozione vivissima che blocca le labbra di Atanasio atteggiate a un gioioso alterco. Temi per Epifanio, vero? L'hai visto, Shalim, durante le eliminatorie? Degli 11 atleti che disputeranno la finale, lui è l'unico con quella corporatura possente. 26 stadi dovrà percorrere sotto questo sole, con avversari fortissimi, e tutti con la corporatura piccola, agile, adatta al dolico. Lui è nato per disputare uno stadio e basta. Tutta la potenza della sua muscolatura che esplode nella distanza di un solo stadio. E si morde le labbra, scuote il capo, occhi offuscati dalla preoccupazione. Non è solo questo, Ipazia. Il problema è la nostra presenza, la tua soprattutto. E le sfioro le mani che bruciano. Tu hai capito, Shalim. Farà di tutto per vincere questa gara, per dedicarla a me. Ieri quegli stupidi del Parlamento Olimpico non mi hanno permesso di assistere agli allenamenti nel ginnasio, ma dopo, a Leonidaion, al banchetto, ho conosciuto l'allenatore, tale Eusebio di Corinto. Non sa nulla di medicina, non capisce niente di alimentazione, è un chiacchierone. Non può proseguire perché entrano gli atleti accompagnati dagli allenatori, fra un tripudio di folla. Un lungo squillo di corni. La folla tace. Gli araldi presentano a voce alta uno a uno i partecipanti e i loro allenatori, specificando la città di provenienza, e ad ogni nome esplode l'ovazione di un gruppo che leva al cielo bandiere e stendardi. Epifanio di Alessandria! Assieme alla comitiva in cui siamo immersi, leviamo le mani al cielo gridando: Sii valoroso! Ma Ipazia non si unisce al nostro incitamento. Epifanio ci ascolti, solleva un pugno chiuso, proteso verso di noi, sorride, lineamenti tesi. Finita la presentazione, gli 11 atleti prendono posto ognuno accanto al palo che delimita la propria corsia, sotto lo sguardo vigile dei giudici che brandiscono lunghe aste, pronte a bacchettare chi dovesse fare una falsa partenza. I corpi degli atleti brillano al sole sotto l'effetto degli unguenti. Sono tutti di piccola corporatura, snelli e agili. Tutti tranne Epifanio, che è il più alto, possente, muscoloso, sembra un lottatore. Un lunghissimo sibilo di aulos emesso da un giudice. Cala il silenzio nello stadio. Gli atleti sono tesi, i giudici pronti. Poi, improvviso, uno squillo di tromba. Gli atleti si lanciano in avanti, la folla leva un'altra ovazione al cielo. Nel primo stadio il gruppo è compatto, scompare quasi alla nostra vista, ma ecco che tornano. Epifanio svetta in altezza su tutti, si vede che scalpita, che tiene a freno la sua energia. Ogni tanto sorpassa il gruppo di mezzo passo, poi sembra ripensarci e si fa riassorbire dagli altri atleti che invece procedono lentamente. Accanto a Epifanio ci sono forse gli avversari più temibili, almeno per quello che si è visto durante le eliminatorie di questa mattina: Apollonio di Atene, capelli biondi, elegante nella falcata, e Frinico di Efeso, riccia chioma nera, che quasi assente dalla gara si limita a controllare Epifanio o a tenerlo d'occhio quando accenna uno scatto. Il sole non dà tregua, lo stadio di Olimpia è un catino di fuoco. Ipazia mi stringe la mano. Quando Epifanio accenna a scattare tra le labbra, emette un no, carico di spavento. Uno stadio dietro l'altro, anche qualche altro atleta accenna a fuggire, ma in poche falcate il gruppo lo riagguanta. Avanti e indietro, il volto di Epifanio è teso. Cogliamo il suo sguardo che ogni tanto ci cerca. Pazzi a conta a bassa voce gli stadi percorsi. 11. Il caldo è opprimente. Ecco che tornano. 12. Quasi metà gara. E a pochi passi dal palo, Epifanio ci guarda, ci lancia un'occhiata gioiosa, gira attorno al suo palo e con una rapidità impressionante accelera, piantando in asso il gruppo. I pazzi emette un'esclamazione di dolore. No, no, no, Epifanio, è troppo presto. No, no. Ma Epifanio accelera. Sembra un toro scatenato, aumenta il ritmo alternando gambe e braccia. Quando torna è solo, ci lancia uno sguardo carico di gioiosa emozione. Il gruppo segue a uno stadio con le braccia ben serrate ai fianchi. Solo Apollonio e Frinico si distaccano di pochi passi per seguire Epifanio, ma sui loro volti non c'è traccia di emozione. Epifanio incrocia il gruppo, accelera ancora, mancano ancora 10 stadi. Quando passa davanti a noi, si vede chiaramente che la fatica comincia a ghermirlo, i pazzi a trema, il nostro gruppo grida il suo nome. Epifanio riesce addirittura ad aumentare il vantaggio. Al 19° stadio è riuscito a infliggere quasi uno stadio e mezzo di distacco a tutti, ma a partire dal 20° eccoli, ecco Frinico e Apollonio mollare il gruppo e sulle ali di piedi agili ricominciare la rimonta. Epifanio se ne accorge. Tenta di reagire, muove le braccia e le gambe in modo disarmonico, il corpo avanza sempre più pesantemente. Apollonio e Frinico si danno il cambio, non forzano, ma si avvicinano. Epifanio è paonazzo in volto, respira faticosamente, lo sguardo è vitreo. Mancano 3 stadi quando viene raggiunto dai due che sembrano solo un po' infastiditi dal caldo e da quel toro impazzito che sta per crollare. Mancano 2 stadi, girano tutti e 3 davanti a noi. Epifanio ci guarda disperato, perde qualche passo dalla coppia. Apollonio e Frinico ormai non si curano più di lui. La gente grida, incita, hanno lanciato il finale. I pazzi non fa che tremare. Poi, quando Epifanio sembra senza speranze, eccolo che riesce a scovare forze nascoste e a mettersi alla caccia dei due. I tre girano ai pali lontano da noi e al penultimo stadio sono praticamente affiancati. Apollonio fa uno scatto bruciante, lascia Frinico. Epifanio arranca, arranca, si trascina scompostamente, ma riesce a tenere la scia di Frinico. Manca mezzo stadio. Frinico fa uno scatto impressionante. Epifanio segue la sua scia. Ipazia grida di no, lo scongiura, mi afferra la mano. Frinico non molla. Epifanio riesce a superare Apollonio. Mancano una ventina di passi al traguardo. Epifanio è paonazzo, allunga le gambe, muscoloso, alza le braccia al cielo. La folla urla. Epifanio brucia anche Frinico, lo sovrasta, lo supera e stramazza al suolo. Mentre Frinico, con una cavalcata scomposta, lo avanza e supera il traguardo con Apollonio che giunge dietro di lui. Nel clamore della folla che acclama il vincitore, Ipazia piange. Epifanio ha il volto nella polvere. Riesce a sollevare un poco il capo di lato, fra le palpebre imbrattate di sabbia, un baluginio di vita e poi, a bocca in giù, il corpo ha un ultimo sussulto e viene quasi calpestato dal resto del gruppo che sta raggiungendo il traguardo. Atanasio piange e abbraccia la sorella. Io supero il piccolo fossato e, incurante di un giudice che mi colpisce con la lunga asta, corro verso Epifanio, giro il corpo, gli sento il cuore, gli guardo gli occhi e ormai senza vita. Resto in ginocchio, il capo inerte di Epifanio sulle mie gambe. Alzo lo sguardo. Ipazia ha il volto rigato di lacrime, si morde le labbra, si alza, si fa aiutare da Atanasio a scavalcare il piccolo fossato per venire verso di me, mentre gli Elanodici, tra il clamore della folla, si avvicinano a Frinico di Efeso con il ramoscello di ulivo selvatico. Il Parlamento Olimpico e i sacerdoti hanno tenuto una riunione straordinaria presenziata dal prefetto imperiale e hanno permesso che il corpo di Epifanio venisse bruciato sull'altare di Zeus la sera del 5° giorno alla fine dei sacrifici e delle gare. Per impedire che l'allenatore Eusebio partecipasse alla cerimonia funebre, Atanasio ha dovuto recarsi al Leonidaion dai magistrati romani. 4 guardie hanno presenziato al funerale assieme a tutta la comunità di Alessandria. Atanasio ha perso il suo sorriso, quella sua aria d'uomo superficiale che non scava mai nel fondo dell'animo umano, riversando su Ipazia un affetto profondo di cui non lo credevo capace. Io, invece, mentre le fiamme divoravano le spoglie di Epifanio, ho dovuto lottare con me stesso per non guardare in volto Ipazia, per assistere al suo dolore, ai riverberi delle fiamme che accendevano di umidi bagliori le sue ciglia, mi scatenava un'emozione incontrollabile. Poi, quando le fiamme hanno ridotto la salma in cenere, ci siamo rifugiati nel vicino tempio di Zeus, ai piedi della gigantesca statua d'avorio e d'oro. Il prefetto imperiale, in via del tutto eccezionale, ha accolto la richiesta del Parlamento olimpico per riaprire il tempio, chiuso dopo l'editto dell'8 novembre dello scorso anno, durante la settimana delle Olimpiadi. I pazzi Atanasi hanno pregato in silenzio, mentre io ammiravo la statua avvolta in un panno di porpora. Zeus è seduto sul trono, nella mano sinistra lo scettro con l'aquila e nella destra la statuetta della vittoria. Le decorazioni del trono, il piedestallo, la predella su cui posano i piedi, i parapetti e le vesti, tutto è decorato a colori. Ma la cosa che più mi sorprende è l'espressione del volto. Fidia scolpì Zeus con un aspetto quasi paterno, con occhi dolci e lineamenti sereni. Questo volto ispira amore, soltanto amore. Anche se il tempio è distante dal Pritaneo, giungono gli echi attutiti dei canti che i vincitori delle gare, assieme alle delegazioni delle rispettive città e ai sacerdoti di Olimpia, levano al cielo. Sono canti struggenti, di una tale bellezza che non posso non pensare a Epifanio, e questo stesso pensiero deve ferire anche l'animo di Ipazia che mi tende la sua mano cercando la mia. La colgo e la stringo, si volge a guardarmi, l'umidità dei suoi occhi è impastata di gratitudine.